dirò che so, do come io, i nostri cuori battono all'unisono, so, sullo stesso tempo uccidono, boh, medesimo momento, rasgo me, perse di onne, me andi di uno che vive dentro te, me, venerando la tua anima, angelo, chiamo ormai di fatti, sento, domina su gran parte della mia identità, so, credici, satura, carica di fleba, è buona solo di tutta, solo tu sai quello che mi dà, finita, me, te mi vida, per l'Italo, e che è il disco. I wanna let you stay. Come duro il pensiero, vivere un mondo da sclero, adottato da una cultura sana in sé per la misura, insana per chi entra senza carpirne la vera lettura. Dentro ormai da tempo vivo il momento, simile senso, denso come il sangue di chi soffre per troppe cose, intenso come il colore dello spray versato su queste strofe, rosso come sentire l'amore, nero come vedere il mare, gira il vinile, la purezza maestro mentale, blu l'intensità celestiale, giallo come lo sclero mondiale. 1, 2, 3, 4, 5. Esprimo roba che mi esce, out of the brain. Non so ma come mi riesce, to fly away. Tipa, mi dà, sfiorami ancora con le tue dita. Sensazione impedisce, reverse alla mia vita.